Buonasera a tutti, questa è transizione di fase, Pink Moon come ogni lunedì sera alle 9. Buonasera. Buonasera, questo era Fabrizio, perché questa sera non sarò da solo a condurre. L'altro ragazzo se n'è andato, è scappato via. Sta ritornando. E niente, questo è Pink Moon, ogni lunedì sera alle 9. Questa sera avremo ospiti i Midnight Resistance Project, Sound System da Bari. Basta fare. Sì, qua partiamo con lo slang. Niente, loro sono Bobo e Fabrizio, poi avremo modo di conoscerli. Partiamo subito con la sigla che avrete imparato a conoscere durante questi appuntamenti. Sono gli Easy Star All Stars con la loro version di Time. Buon ascolto. Eccoci tornati su transizione di fase Pink Moon. Abbiamo i Midnight Resistance Project qui al mio fianco e sono Fabrizio. Al centro Fabrizio e Bobo, Roberto, due ragazzi, due guagnumi di Bari, niente, attivi con il sound system ancora no. Teniamo perché... a sottolineare che siamo di base. Ok, c'è un forte campanilismo. Fortissimo. E infatti per iniziare abbiamo dovuto smettere di parlare del Bari e di calcio. E niente, il sound system non è ancora attivo perché lo state costruendo, ultimando. E niente, se volete dire qualcosa in merito a questa, attitudine da sound system. Diciamo innanzitutto che abbiamo iniziato a suonare insieme io e Bobo con il cantante Davide circa 4 anni fa e niente, subito abbiamo pensato insomma di fare questo progetto di costruzione di un sound system, appunto delle casse autocostruite, per poter promuovere la nostra musica, le nostre idee. E abbiamo iniziato appunto 4 anni fa e ancora adesso, dopo 4 anni, non abbiamo ancora non stiamo costruendo da 4 anni però, Vabbè, più o meno, sono 3, ormai sono 3 anni. Non abbiamo ancora terminato perché ci sono diverse difficoltà. Dai, insomma, c'è chi sceglie magari di suonare strumenti facili da trasportare, loro hanno scelto una via un po' più difficile, un tir di 200 quintali che... Infatti, sì. Che inaugureranno, si spera, questo giugno. Fra insomma all'inizio di quest'estate si spera di poterlo inaugurare qui a Roma oppure giù da noi a Bari, non si sa ancora. È ancora un mistero. Presto vi faremo sapere. Innanzitutto ricordiamo che voi suonerete in Salento quando? Il 1° maggio presso la masseria Barone, che fra le campagne nel nulla salentino fra le campagne che loro amano così tanto, vabbè, lasciamo stare, fra le campagne fra Surbo e Lecce. Una serata organizzata da Shankara Sound System, no? E da Brising, ragazzi di Da Brising di Lecce. E niente, quindi suoneremo in questa splendida cornice della masseria Barone, una masseria abbandonata appunto fra le campagne. Quindi se salentine. Siete nelle vicinanze o se vi anche volete se lontani, accollare chilometri e chilometri di viaggio, si trova facilmente il nostro flyer, cioè il nostro flyer, il flyer della serata su internet, cioè della serata, della giornata, perché alla fine si inizierà a suonare dal primo pomeriggio fino a tarda notte. Si trova facilmente su internet, sul nostro MySpace o sul MySpace di Da Brising o di Shankara Warriors. Va benissimo, allora passiamo velocemente, anzi innanzitutto una comunicazione importante, prendo la palla al balzo dicendo che transizione di fase domani sarà alla Feltrinelli, a Galleria Colonna, a intervistare Massimo Zamboni, il chitarrista storico dei CCCP, che presenterà appunto lì a Galleria Colonna il suo ultimo disco e il suo ultimo libro. E quindi dalle 18 potrete collegarvi su Transizione di Fase per ascoltare sia la presentazione che poi la nostra intervista. E penso verrà mandata anche in differita perché noi siamo ottimo dei simpaticoni e abbiamo anche questa cosa simpatica del podcast che non fa mai male. Possono scaricare le puntate da internet? Sì, senza copyright, niente. Anche questa puntata verrà registrata, quindi ci potrete sentire quando cavolo volete. E io direi di iniziare a mettere un po' la selezione che abbiamo scelto. Abbiamo detto che musica facciamo. Sì, fate black metal e più o meno pancoi, militante. Vabbè, ovviamente dub è tutto dub, roots, dub, reggae music. Sì, tutto quello che può gravitare intorno a questo splendido genere. Direi di iniziare con il primo pezzo scelto direttamente dai Midnight. Lui è Barney Spear con Civilization Reggae. We'll be right back. Pregherei in Inghilterra, pregherei in America, pregherei in Canada, pregherei in Jamaica, pregherei all over. You do the reggae, you do the reggae, you do it. Reggae in Germany, reggae in Italy, reggae in France, reggae all over. Take your time, move your line. Do the reggae, you do the reggae, you do the reggae, you do it. Thank you. E ritorniamo in studio, se studio si può chiamare una camera da letto allestita, studio radiofonico. Siamo sempre con i Midnight Resistance Project, Sound System da Bari, per chi si fosse collegato ora in questo momento. Soprattutto ringrazio tutti gli ascoltatori, perché siete schizzati dopo 10 minuti di trasmissione. Pure noi siamo schizzati. Anche noi stiamo piuttosto schizzati. Ovviamente ringraziamo Donato alla console e i nostri ospiti che stanno dietro in studio nel privé. Ringraziamo pure la nonna di Donato, Ringraziamo la nonna di Donato che ha fatto questo meraviglioso limoncello. Mandarinetto. Ah, scusate, mandarinetto. E niente, volevo innanzitutto un minimo ricordarvi il palinsesto, perché come saprete Transizione di Fase è un progetto sempre in evoluzione. Siamo partiti da un applauso. Dai, ragazzi, a Transizione di Fase. Siamo partiti in pochi e ora c'è sempre più gente che vuole partecipare al progetto e noi non possiamo che essere contentissimi di questo. E vi ricordo un minimo il palinsesto. Intanto sì, Ciccio parla di lunedì e delle sue esperienze passate. Abbiamo innanzitutto Out of the Shell, che ogni notte dalle 23 all'una con Ciccio Svelo e il suo delirio indipendente di intervento sociale ci tiene compagnia tutte le notti. Abbiamo un'altra trasmissione che c'è tutti i giorni ed è principalmente musicale, ed è A Saucer Full of Secrets di Alex da Roma, dalle 15 alle 17 tutti i giorni, mentre un'altra trasmissione musicale è Radio Noise, dalle 21 alle 23 ogni martedì, a cura di Renato da Roma, che di solito mette un po' di hardcore, un po' di tutto, un po' di grunge, di metal, insomma, musica bella tosta. E poi abbiamo Salute e Felicità ogni mercoledì, una rubrica tendenzialmente queer, la cura del corpo, come ama definirla Pefo, ogni mercoledì dalle 21 alle 23. E poi facciamo un macello dei ragazzi del collettivo resistente di Lamezia, che ogni venerdì dalle 18 alle 19.15 sono con la loro trasmissione Facciamo un macello. Una piccola parentesi politica, tra virgolette, anche se non è mia attitudine, diciamo, però voglio ricordare che i ragazzi, appunto, sia quelli che trasmettono ogni venerdì, e sia anche altri ragazzi del collettivo resistente Altra Lamezia, un paio di giorni fa sono stati aggrediti da alcuni fascistelli, i soliti, non facciamo nomi, sì, a Lamezia, mentre stavano attacchinando dei manifesti, niente, sono stati aggrediti brutalmente, niente, diamo la nostra solidarietà a questi ragazzi, e ovviamente non mollate il progetto, né tantomeno quello che state facendo a Lamezia. Lo sappiamo che è un posto difficile. E quindi grandi. Niente, dopo questa piccola parentesi pubblicitaria possiamo dire a Donato innanzitutto di alzare la musica e lo ringraziamo per la sua operosità alla console. Niente, abbiamo ascoltato Barney Spears con Civilization Reggae. Vorrei passare ora a un pezzo sempre dalla selezione che hanno fatto i Midnight. Questo pezzo è di Pablo Moses, si chiama Revolutionary Step. Vai! Yeah. A revolutionary step. I dance from reggae, I get to the revolutionary step. I dance, you will never point your head to the revolutionary step. Step forward, brothers and sisters, step forward. And if you wanna sweat, yeah, it's the blue jacket. And jump for the better, faster and higher. Let the music get to your bones. Move on the timber of your toes. Like a lion in the jungle, move smoother, and don't you stumble. The revolutionary step against from breaking ahead. Do the revolutionary step against. You will never forget. Do the revolutionary step. Step forward, brothers and sisters, step forward. We no LSD, no. Not any cocaine, no. Don't want to do it again and again. It may look hard to do, but believe I, it isn't so. Do it once and twice, then your love bound to grow. The revolutionary step against from reggae again. Do the revolutionary step. I guess you will never forget. Scooby-Da, Scooby-Da, yeah. Scooby-Da, Scooby-Da, Scooby-Da, Scooby-Da, yeah. Scooby-Da, Scooby-Da, to you. It may look hard to do, but believe I, it isn't so. Do it once and twice, then your love bound to grow. The rain. Revolutionary step. I dance from reggae, I dance to the revolutionary step. I dance, you will never forget. To the revolutionary step. Step forward, brothers and sisters, step forward. Scooby-Da, Scooby-Da, yeah. Scooby-Da, Scooby-Da. Thank you. leash on every step. The revolutionary step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, ritornati sempre qui nello studio. Stavamo pensando, riflettendo un attimo sul fatto che la radio è bella anche perché ti puoi presentare in maniera indecente. Siamo tutti nudi. Siamo tutti nudi. Siamo indecentissimi questa sera. Ovviamente non ce ne frega un cazzo, perché la radio è bella per questo. Un appunto sulla luna che si vede da questa finestra. Esatto. La location è senza dubbio bella e spettacolare. Intanto salutiamo Gianluca, che è appena arrivato dalla Polonia. Dalla Polonia, Gianluca, in diretta. Niente, i ragazzi volevano fare un intervento breve sul concetto di sound system. Così sembra che ce lo siamo preparati. No, cioè, mi sembra doveroso però un minimo spiegare il perché di questa scelta. No, vabbè, per quanto riguarda me, dunque, la scelta di costruire un sound system mi è venuta un po' di tempo fa, quando ho sentito in azione il primo sound system giù a Bari, I&I Project. Gran sound system. Un grande sound system che ha iniziato molta gente giù di Bari e della provincia. Era e non solo. Pochi che faceva cultura. Bravo. Musicale. A reggae. Grazie a, lo ricordiamo, Mimmo Pizzuti, Mimmo Superbass, che era un musicista dei Different Style, una delle prime band reggae in Italia. Insomma, niente, dopo questa esperienza, dopo aver sentito per la prima volta questo sound system in azione, ho iniziato a pensare, in un certo senso, che la cosa mi piaceva. Ma questo agli anni? No, vabbè, questo 2000, comunque non troppo indietro col tempo. Era il 2000, quando la serata era... Bravissimo, ti pure tu? L'ultima, sì. L'ultimo centro sociale esistente al Corpo La Rossa, esatto. Bari. Ad Adelphia. E ci fu la serata di Linea di Massa di Roma con i ragazzi di I&I. Faccio la serata intitolata Intifadab. Era praticamente una serata nella quale giravano sui giradischi solamente basi strumentali, quindi basi dub. E diciamo, da quella volta fui folgorato, il primo approccio, sì, da questa musica, da questa atmosfera, da questi bassi e così via. I bassi che ti fanno vibrare tutta la bocca. Esatto. E quindi, diciamo, cioè, io devo dire grazie personalmente a tutta la militanza di I&I, questo sound system barese, e anche devo dire grazie ad altri ragazzi che ci hanno aiutato a, ci hanno indottrinato anche in un certo senso alla costruzione di questo sound, i ragazzi appunto di Sankara, Paco, Alex e un po' della Massive Romana anche. Quindi niente, insomma, questo è stato la mia, il mio approccio. E poi come vi sono, cioè, vai. Ah, vabbè, io il sound system alla fine lo intendo come un mezzo di comunicazione alla fine. Cioè, tu quando fai, non so, quando suono, cerco di ricreare un ambiente sonoro nel quale comunicare con la gente, cioè, un'estensione della, dei propri arti, come il, per il violista, per chi suona la viola, per chi suona il contrabbasso, lo suo strumento è un'estensione delle proprie braccia. Io lo vedo in stessa maniera con il mio sound, cavi e viti, che un'estensione un po' più pesante, sì, diciamo. Un po' più nettamente. Possiamo paragonare un po' l'amplificazione al cervello del sound. Certo, sì. Il preamplificatore invece al cuore del sound, no? Niente, io mi sono comunque avvicinato su una reggae liceale, diciamo, con un gruppo con che Fabrizio faceva il Siletta. DJ dopo Fabrizio. I nostri concerti non potevo suonare nessun altro strumento perché no, lui suonava hip hop, quindi non vi dico, non ero in grado di suonare nessuno strumento. E niente, quindi abbiamo suonato, poi ci siamo trasferiti a Roma, ci siamo rincontrati a Roma un anno dopo. Poi Fabrizio è diventato un operatore sociale famosissimo. Ho lasciato il reggae. E niente, siamo rincontrati, abbiamo deciso di metterci insieme a costruire. Sì, insieme, è fraintendibile effettivamente. Lasciamo fraintendere. Ah, una cosa, il nome per caso viene dal videogioco. Sì, ma è totalmente, quasi totalmente causale, cioè, non ha un significato. Lo scegliamo in fretta il nome del sound della cosa, insomma. Però a me, per quanto mi riguarda, era Midnight Resistance, era un gioco dell'Amiga con cui ci ho flippato per un sacco di tempo quando ero ragazzino. Serve un nome. Midnight Resistance, veloce. E niente, parlava di questa invasione aliena che era fronteggiata da degli eserciti non convenzionali, diciamo, ambientato tutto nel futuro. Quindi Ancon se ne più. Era uno sparatutto. Insomma, questo esercito militante che andava contro una dittatura aliena. È una bella cyberpunk. Sì, esatto. Post ci sta sempre. Post punk po' post, e niente, vabbè, noi intanto ringraziamo ancora di nuovo la nonna di Donato che ci ha distillato questo mandarinetto geniale. Bello. E niente, io passerei al prossimo pezzo, del quale poi Fabrizio ci parlerà un minimo, perché mi è stato detto che su questo pezzo lui ha fatto la tesi di laurea, non so se sarà sicuramente una minchiata. Io non ho fatto la mia tesi di laurea su un pezzo, bensì su un pezzo. L'ho visto su Wikipedia, c'era scritto Fabrizio. C'è un chiaro riferimento a me. Niente, questo è Linton Quincy Johnson con Sony Letter. London Southwest to England. Dear Mama, good day. I hope that when these few lines reach you, they may find you in the best of health. Mama, I really don't know how to tell you this, 'cause I did make a solemn promise to take care of little Jim. and try my best to look out for him. Mama, I really did try my best, but nonetheless, I'm sorry if I tell you, sir, poor little Jim, get a rest. It was the middle of the rush hour, when everybody just a hustle and a bustle to go home for them evening shower. Me and Jim stand up waiting for a bus, not causing no fuss, when all on a sudden a police van pull up. Out from three policemen, all of them carrying baton. Them walk straight up to me and Jim. One of them hold on to Jim, say him taking him in. Jim tell him to let go of him, for him not do nothing, and him not a thief, not even a button. Jim start to wriggle, the police start to giggle. Mama, make I tell you what them do to Jim. Mama, make I tell you what them do to him. Them thump him in him belly and it turn to jelly. Them lick him pan him back and him rib get pop. Them lick him pan him head but it tough like lead. Them kick him in him seed and it started to bleed. Mama, I just couldn't stand up with you. So me juke one in him eye and him started to cry. Me thump one in him mouth and him started to shout. Me kick one pan him shin and him started to spin. Me thump him pan him chin and him drop on a bin and crash and dead. Mama, more policemen come down and beat me to the ground. Them charge Jim for sus, them charge me for murder. Mama, don't fret, don't get depressed and down hearted. Be of good courage till I hear from you. I remain your son, Sonny. Brixton Prison, Jeb Avenue, London Southwest 2, England, Mama, make I tell you what them do to Jim. Mama, make I tell you what them do to him. Them thump him in him belly and it turn to jelly. Them lick him pan him back and him rib get pop. Them lick him pan him head but it tough like lead. Them kick him in him seed and it started to bleed. just couldn't stand up there and do nothing. Torniamo qui a Pink Moon direttamente da Ponte Lungo in Roma. Io sono Michelangelo e ho ai miei lati Bobo e Fabrizio. Sempre noi, non ce ne andiamo, mica. niente, questa era Sony Slam. Esatto. E lascio a Fabrizio che l'onere e l'onore di parlarci un po' di questo pezzo. No, vabbè. Dunque, produciamo l'artista, Linton Kwesi Johnson. È il più importante, diciamo, esponente della dub poetry, sottogenere della musica reggae. Potente inglese. Inglese, sì, è un genere, sì, prettamente inglese. Lui era un... anzi, è ancora in vita, per fortuna. E vi consiglio di andarlo a vedere perché è merita. Sì, perché insomma... sta per morire, soprattutto. No, vabbè, dai. No, non è così. Vabbè, gli abbiamo allungato la vita. Vabbè. Insomma, il massimo esponente della dub poetry, questo sottogenere della musica reggae, che prevede, diciamo, la recitazione, la recita del... testi un po' più profondi. Poesie, vere e proprie poesie. Poesie su basi dub suonate. L'idea Andrea del reggae, va. Bisogna sottolineare un attimo che il dub, quando in Inghilterra si parla di dub, non si parla di una musica cantata, ma dub significa prettamente strumentale. Dalle, esatto. dubbing. Esatto, quindi da poetry, appunto, poesia recitata sulla musica dub, sulle strumentali. E le poesie di Linton Kwesi Johnson sono poesie politiche, poesie di un'epoca, gli anni, fine anni 70, inizio anni 80, anni difficili per gli afroamericani, gli afro-giamaicani emigrati e gli afro-antigliani emigrati in Inghilterra, perché insomma il governo inglese retto dalla, esatto, da Margaret Thatcher, il primo ministro, non gli riconosceva alcun diritto di cittadinanza, nessun diritto politico di... insomma, di nessun tipo. Esatto, infatti questa canzone che abbiamo appena sentito insomma è una lettera letta da un ragazzo afro-giamaicano che comunica alla mamma l'arresto del secondo genito, quindi di suo fratello. E lui che si doveva prendere cura, insomma, di suo fratello, non è stato in grado, a quanto dice, di salvarlo dalle botte della polizia, di questa polizia inglese, che all'epoca, solo in base al sospetto, poteva... No, qui ci suggerisce il buon Samuele che, anzi, certifica che la Thatcher era alquanto monella. Molto monella. Infatti fu una legge proprio del... non ricordo se del 78 o dell'80, secondo la quale la polizia poteva arrestare diciamo, ogni persona che era ritenuta sospetta, esatto, meglio questo te, ritenuta sospetta di creare disordini in città, così. Quindi diciamo gli afroamericani erano i più esposti a questa legge. E poi infatti proprio questo è successo al ragazzo di cui si parla, sì, nella canzone. E poi Fabrizio quanto ha preso alla laurea, poi com'è andata? 97 centodecimi. Ho avuto il massimo dei crediti alla tesi, almeno. Partivo da una media abbastanza bassa. Comunque c'è da dire che la scena inglese reggae degli immigrati giamaicani, soprattutto in questi anni 70-80, si è radicalmente diversa da quella Jamaicana, per l'appunto. Diciamo che perché direzioni diverse. Sì, è molto più politicizzata, perché erano tempi, però come vi ho detto, abbastanza duri, tipo gruppi come gli Steel Pulse, Magumbi, lo stesso Lyndon Quincy Johnson, avevano particolare attenzione alle liriche delle canzoni, temi molto sociali. Quando questo si è perso questa sorta di militanza, ci si è spostati molto più sul religioso, e infatti è nata tutta la corrente dub, quella che viene chiamata dub, che noi chiamiamo dub, con i vari Jah Shaka, Bashanti negli anni, primi anni 80, inizio anni 90, che erano fortemente religiosi, quindi nei testi sono molto più, dove si inneggia molto più al rastafarianesimo. Era Bashanti quello dell'occhio? Sì, Bashanti si dice che durante le sue messe, perché lui all'inizio definiva le sue fashion delle vere e proprie messe in onore di Jah Rastafari, vabbè, il loro dio, insomma. Si dice che il suo occhio strabico si raddrizzasse, non si sa come. Questa è una tesi pure di Andrea, il ragazzo che l'ha scritta nella sua tesi, del ragazzo in linea di massa dei tempi. Francesco, se non mi sbaglio. Vabbè, linea di massa, ragazzo, sono un sound abbastanza storico, romano, uno dei primi che hanno portato questi generi musicali su Roma, hanno più di 10 anni di attività. Vabbè, sono cambiati, cioè uno ne è rimasto dell'originale, gli altri ragazzi. Uno dei rasta più lunghi della storia. No, non è vero, non sappiamo. Penso siano rasta. Non però, sappiamo. Cioè, non penso parlo della lunghezza del comunque, massimo rispetto per quello che hanno fatto, per quello che continuano a fare per la scena romana e italiana. Niente, io ora me ne vado, lascio Bobo e Fabrizio a condurre. No, spodestato. No, invece vi facciamo ascoltare un altro pezzo dalla selezione dei Midnight, Peter Brooks con Never Forget Jah. Pezzo religioso. Never forget the Father, no. You're walking, in your talking, you got to remember Jah. In your walking, in your talking, you got to remember the Father. He's the one that keeping you alive. He's the one that making you strive. So you got to give thanks and praises for every little thing you achieve. For the clothes that you wear, for the food that you eat, and for the roof over your head. For the clothes that you wear, for the earth that you eat, and for the roof over your head. So in your walking, in your talking, you got to remember Jah Jah. In your walking, in your talking, you got to He's the one that's keeping you alive. He's the one that's making you strive. So you got to give thanks and praises for every little thing you achieve. Eccoci tornati, sì, ah, ok, mi dicono di fare un'intervista al telefono, perché no? Niente, noi siamo sempre in diretta dal Solarium di Ponte Lungo in Roma. Siamo sempre Michelangelo, Bob e Fabrizio. Un componente di Consciousness Sound System, un sound materano. Anch'esso storico, direi. Luca, siamo in diretta su Radio Transizione di Fase. C'è un... siamo in viva voce, eh? Bisognerebbe abbassare un po'. Abbassiamo. Aspetta. Problemi tecnici. Lui è Michelangelo, conduttore. Sei in onda su Transizione di Fase, questo è Pink Moon e siamo tre guagnuni. Michelangelo, Bob e Fabrizio, niente, se vuoi rilasciare qualche dichiarazione. Non scottanti. Parlaci un po' di sto sound, Luca. Pronto, mi senti? Oi. E che se ne vai via, la voce? Che cazzo ne so? Personaggio folcloristico da quando abbiamo. Parlaci un po' della tua esperienza, del tuo, di come avete costruito il vostro sound. Dai. Che sei in diretta. E qui è volata una cassa nel frattempo. Insomma, Luca, questa esperienza del sound system, come ti è venuto di costruire il sound? Come essere venuto? Di costruire il sound. Allora, l'esperienza del sound, abbiamo voluto costruire il sound, diciamo che è 10 anni che questo grillo per la testa. E siamo riusciti, dopo 10 anni, a realizzare questo, tra virgolette, sogno di Sunshine. E ora abbiamo un... Chi è Sunshine? Chi è Sunshine? Ragazzo che suona con te. Buona musica. Chiedono chi è Sunshine. Non ho capito. Chiedono chi è Sunshine. Sunshine Marco è il nostro fondatore di Consciousness. Ok, vai avanti. E niente, abbiamo costruito questo sound, come ora, finora l'abbiamo utilizzato solo due volte, una volta con l'inaugurazione per festeggiare i 10 anni di attività, e la seconda volta per ospitare Dead Movement, che c'è Mickey Dread. Quindi 10 anni di attività, Luca. 10 anni di attività. Complimenti, di militanza. Dieci anni di attività musicale, di distribuzione, di diffusione, di promozione della reggae music. Serate sulla Murgia, cose varie, no? Sì, all'inizio abbiamo iniziato appunto a suonare sulla Murgia, nei cassi, quando ancora erano disabitati, prime serate nelle grotte, e poi abbiamo... Purtroppo questi posti sono venuti a mancare, e quindi ci siamo un po' adeguati ai locali, ai capannoni e così via. E bisogna scendere un po' a compromessi pure. Parliamo un po' anche della mancanza di spazi. Parliamo un po' di questa mancanza di spazi al sud, dove diffondere un po' di musica. Quando ho capito, non è solo una musica del sud, ma un po' di tutta Italia, da, penso, da Milano fino a Palermo. E purtroppo i locali non vogliono ospitare i grandi sound, i grossi impianti. Fanno troppo rumore. Non ho capito. Fanno troppo rumore. Fanno troppo rumore, vanno un po' contro anche le leggi, sai, quelle per l'acustica e così via. E poi, diciamo, più che altro... perché si fumano le canne, fanno casino. Vedere queste casse ciclopiche. Ciclopiche! Grande! Tanto pregiudizio anche sul tipo di musica che si suona. Non è una musica tanto commerciale, quindi diciamo non ci fa entrare, non fa entrare tanta gente, sono un po' sempre limitate rispetto a una normale serata da sole discoteche, quindi ci sono dei limiti maggiori. Vabbè, adesso vediamo il motivo per cui mi hai chiamato prima. Che è? Il motivo per cui ti ho chiamato prima, lo dico, Carnute. Non sapevo com'è che questo paio non riusciva a vincere con la Juventus. E c'è una fa. Solite cose, poi ne parliamo in privato. Può essere una dichiarazione scottante. Se non è vera questa trasmissione. No, è reale, è reale, è reale. Potrai ascoltarla in podcast, poi sì, su www.transizionedifase.org, poi il buon Fabrizio ti dirà come ascoltarla. Grazie Fabrizio, vi ringrazio. Fabrizio, ci sentiamo nei prossimi giorni, va bene? Ciao bello. Grazie. Ciao Luca. Ciao Luca. Dopo questo intervento telefonico di Luca del Martufello Consciousness Sound System da Matera, speriamo si sia sentito più o meno bene. Il tutto è un esperimento tramite cellulare. Sì, tramite cellulare, però è una cosa, è uno strumento abbastanza importante per una web radio. Ricordiamo che Transizione di Fase non è come tutte le web radio, ma non perché ci vogliamo fare i fregni, ma per il... Vabbè, siamo fregni. Siamo fregnissimi, però anche per il fatto che trasmettiamo da città diverse, c'è chi sta a Londra e muove le fila tecniche di questo progetto, c'è chi trasmetterà da Bologna, c'è la redazione, la colonna romana che, come vi ho già detto, domani sarà alla Feltrinelli, a Galleria Colonna, per... Allora? Dalle 18 potrete intervisterò Massimo Zamboni, chi è? Quel pazzo furioso chitarrista Grand. Dei CCCP storico, che presenterà il disco e l'ultimo libro, e noi saremo lì a rompergli i coglioni e a fargli una mini intervista. Ovviamente anche questa intervista e questo collegamento da Galleria Colonna lo potrete ascoltare poi in podcast sul sito della radio. E niente, non ci rimane che passare al prossimo pezzo che faccio lanciare dai ragazzi. Pablo Gadd, sempre si parla di roots inglese, questo sarà fine anni 70, non ne sono sicuro, comunque fine anni 70, si chiama Beggar Man Child ed è Pablo Gadd. Buon ascolto. Never forget the father, no. When you're walking, and you're talking, you got to remember Jah. When you're walking, and you're talking, you got to remember the father. He's the one that keeping you alive. He's the one that making you strive. So you got to give thanks and praises for every little thing you achieve. For the clothes that you wear, for the food that you eat, and for the roof over your head. For the clothes that you wear, for the earth that you eat, and for the roof over your head. So when you're walking, you're talking, you got to remember Jah.

paparazzi. Bob ha dato il cambio a Donato alla console. Siamo sempre qui dal Solarium dopo l'intervento di Luca Martufello. Tu non l'hai conosciuto Luca, no? No. L'abbiamo conosciuto qui. Spesso a casa, qui a Roma. Via telefono. Luca, è la ragazza con cui facciamo la serata alla Slimia. Ah ok, alto. Sì sì, col panzone. Brutto. Ha un fratello di Matera. E niente, siamo qui a parlare di questo progetto che penso a fine maggio, inizio giugno scenderà, speriamo anche. Tu stai parlando assai. Nelle strade, speriamo. Stai parlando assai. Nei parchi, speriamo. Diciamo che privilegiamo l'open location all'aperto. Vabbè, il progetto è quello. Poi ci sta di mezzo la realizzazione. Cioè. Sì. Sono scontrazzi con le realtà politiche delle zone. Pure. Puntiamo ad andare oltre i soliti posti noti per suonare questo tipo di musica. Che già non è che vivano di grandi fortune, no, in questo periodo, vista la bella conduzione al vertice. Comunque, Romana? No, sì, ma si parla di Roma? Ma stiamo parlando di Napoli, della capitale. Della capitale. Tra l'altro mi sono dimenticato di mandare lo spottino sul referendum per l'acqua, però questo avremo tempo più in là. E niente, volevamo parlare del Bari, però però qui sempre pronti. È una situazione un po' strana, diciamo che si sta. Va tutto benissimo, ci siamo salvati con 2 giorni, no, quanti sono? 3 giorni di anticipo. Io sì. Quante? Di più. Sì. Sono tre partite che regaliamo. Ora è matematico. Ora è matematica. Una salvezza matematica che, diciamo, permette al Bari di fare regali qui e là. Però non stiamo a. Citando al Miron. Ma chi non è mai contento si lamenta pure di questa salvezza. Noi che dall'inizio puntavamo a strappare un posto per il prossimo anno. Ma questa è un'altra storia, raga. Nella puntata precedente vi avevo lasciato con la bisca di poker che era in atto nella cucina a fianco. Per fortuna questa sera si è trasferita altrove. Se no Fabrizio avrebbe partecipato con molto piacere. I suoi assi nella manica sono finiti. Sarei andato dall'altra parte a dimostrare la mia bravura. E niente, anche perché poi i vicini del piano di sopra, diciamo che non hanno proprio apprezzato. Ma no? Che succede? Niente, si sono lamentati giustamente. Ci davano tutti i soldi. Troppi soldi e troppe urla soprattutto. Il prossimo pezzo, che vedete, è giamaicano, vincerà Bobo. Si parla di Freddie McGregor, un artista giamaicano, Rastaman Camp. Freddie McGregor, vuole fare un appunto? Diciamolo, facciamolo. Fu lui che vedemmo a Bari nel lontano... Sì, che era negli anni 90. No, credo nei lontani 70. Sì. No, quando fu? Nel ricordiamo 2002, che i Midnight hanno 40 anni. Era un corista bellissimo. Bravo. Giusto l'altro giorno rivedevo con Martufello proprio le foto di quella giornata. Foto incentrate sulla corista di Freddie McGregor, che era la figlia. La figlia? Hai capito. Foto che vi faremo vedere nella prossima puntata, ovviamente, visto che il mezzo ce lo permette. Un concerto a Putignano. Sì, a Putignano. In un capannone di Putignano. Dove c'era sicuramente anche Donato. C'era Donato qui presente alla console. Cassa. Non profonico. Insomma, Freddie McGregor è un artista giamaicano che per lo più fa pezzi in maggiore, pezzi un po' allegrotti. Cover, tutto qua. Però questo pezzo... possiamo dire che è un pezzo storico. Abbastanza minore, qualche persone dicono di conscious in questi casi. Si parla di reggae conscious, roots conscious. Si parla di un campeggio rasta. Cos'è il reggae conscious? Perché ovviamente non tutti gli ascoltatori conscious sono le liriche un po' più impegnate, o sia dal punto di vista religioso che da quello politico. Però vabbè, lo sappiamo, i giamaicani hanno questa tendenza al religioso, all'inneggiamento. Questo Haile Selassie che viene, diciamo, ogni volta incensato con striscioni e poster dietro le console. Vabbè, sono visioni. Non volevo mancare di rispetto. Stai mancando di rispetto. Vabbè, la comunità che sta chiamando al telefono. Senti te puoi squillare. C'è qualcosa che non va bene, E niente, questo Freddie McGregor ci canterà. Facciamo un lancio sanremese, va. Con il maestro di Freddie McGregor. Maestro Mazza. E Freddie McGregor. Il maestro Mazza dirigerà Rastaman Camp. Morning when the sun is shining, there were many standing peeping over trying to capture iron and gray dream. Them walk to carry I name in a them mix up now, Jah. But oh Jah, will you hear my cry? The devil is looking trying to capture right now. No mercy for the wicked job. Them on the far right now in a Babylon. Man come rallying on Rastaman camp. If you chant some songs, you better come rally. Man come rallying on Rastaman camp. If you chant some songs. Torniamo in diretta su Pink Moon. Qui eravamo un po' indecisi se mettere o l'ultimo pezzo del mixtape, oppure, visto che stavamo parlando di Uroy, che è stato un po' sicuramente il primo cantante sulle version, principalmente di Quintabi, le version strumentali dei pezzi reggae dei lati A. Nel lato B solitamente c'erano queste version strumentali che si prestavano molto al toasting, e Uroy è stato senza dubbio uno dei precursori, anzi il primissimo a cantare sopra. Che ha rivoluzionato un genere. ed ha dato poi vita anche a generi un po' meno conscious, diciamo, quali il bashment e tutta la dance. Allora, quella è la deriva moderna, piuttosto deprecabile da un punto di vista, direi. Diciamo che Bobo non è un grande fan della bashment, ma nemmeno noi. Nemmeno noi. E vabbè, come non parlare di Kintabi a questo punto, direi. Sì, vabbè, Kintabi è stato, era un produttore nonché anche musicista giamaicano, uno dei primi insieme agli Scratch Perry che hanno preso le basi di Marley, i dischi di Marley, dei vari primi musicisti reggae. Che hanno fatto? Hanno tolto la voce e hanno messo degli echi. La prima volta pare sia successo per sbaglio. Per sbaglio, sì. Per sbaglio. Insomma, lasciavano questi strumentali infinite, dove ogni tanto la voce ritornava con l'eco sopra, e su quali poi durante le dancehall, tipo un ventottenne, leggo, Uroy, un altro, ha cominciato a fare questo stile parlato su queste version dubbate, che appunto, come abbiamo detto, ha rivoluzionato il genere, sì, tipo rapper, ha rivoluzionato il genere reggae. Infatti in Giamaica da quegli anni in poi le dancehall erano prettamente con DJ Styles, proprio appunto questi DJ che parlavano, ogni tanto accendavano linee melodiche, ma era praticamente parlato. Queste sono, alla fine anche gli artisti americani, rapper, sono andati ad ispirarsi a loro, cioè sono stati comunque finita la musica. Ce ne andiamo. Come i giamaicani sentivano la radio, gli americani, quando all'inizio degli anni 60, gli anni 50, prendevano un po' di downtempo, un po' di jazz, un po' di tutto, di soul, e creavano il reggae. Così negli anni 80, negli anni 90, gli americani sentivano i giamaicani parlare sulle version e hanno creato quello che poi si può parlare, cioè, si può chiamare anche rap. Insomma, ce lo sentiamo. Andiamo a sentirci Uroy con una versione di una canzone, diciamo, un po' famosa, va. Si chiama Natty Rebel. Stand up bussin' and fightin'. Why not just get together and live in one love and one identity, you know? Rebel in the morning, rebel in the evening too. Now don't you be like a devil when I play with songs called a rebel, rebel, rebel. You can hear what I say, let there be love. Stop your running wild. perform night and day, round along the week, gonna hear me what I say. Salve, quanto facciamo? Me ne fa 5 litri? 5 litri fanno 5 euro. Ma ogni giorno costa di più. L'acqua è un bene comune e non si vende. Firma per i 3 referendum che dicono sì all'acqua pubblica. Dal 24 aprile in tutte le piazze italiane troverai i banchetti di raccolta firme. Per informazioni e per sapere dove, acquabenecomune.org. Perché si scrive acqua, ma si legge democrazia. Radio Transizione di Fase, la radio senza amici di Maria De Filippi. We are the music makers. Niente, Fabrizio si è perso lo spot. Ho sentito benissimo. Benissimo. 5 euro, 5 litri. No, no, quello dell'acqua. Vabbè, ovviamente vi invitiamo a andare banchetti. A firmare. Anche perché per le politiche non vi consiglio ovviamente niente, perché nessuno è degno, a mio parere, ma anche penso per i midnight, però l'acqua è di tutti. Però l'acqua ai referendum è una cosa un po' diversa. No, io dicevo lo spot di transizione di fase, la radio senza amici di Maria De Filippi, e ci teniamo a rivendicarla questa cosa, visto che a Sanremo ha vinto in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Ma io non ho ancora sentito la canzone di quello che ha vinto. Ma Sanremo. Bellissima, una canzone. Ah, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, tutti a trombare. Sì, l'universo, insomma. Sì. Comunque è roba di amici sempre. Sì. Come Marco Carta e tutta questa splendida progenie che nasce da quel mostro di Maria De Filippi. Bella signora. Una gran bella però signora. Però devo dire che oggi parlavo con ragazzi che lavorano dentro amici, che mi dicevano l'accuratezza con cui curano le colonne sonore all'interno del programma. Noi rimanevamo scandalizzati, ma loro erano contentissimi di ciò. Vabbè, a parte questa digressione. E... niente, io direi di continuare con... Ci dici di mondo a casa? Vogliamo Fabrizio da amici a cantare. Presto Fabrizio da amici, a grande richiesta. Lirica, oh no, l'ha aperto la sezione lirica, sono la sezione lirica. La sezione. No, qui eravamo indecisi se mandare un pezzo dei Groundation, che personalmente... ho conosciuto tramite Bobo e che... i Midnight dicono di aver visto dove? A Rototom, Sunsplash di 4 anni fa, forse. Che ricordiamo non si terrà più in Italia per un motivo che era... problemi di ordine pubblico, credo. Sì. Anche. Sì. E niente, se volete andare a seguire le nuove edizioni del Rototom dovete arrivare, mi sa, in Spagna. In Spagna, sì, non mi ricordo bene la nuova location, però non me ne parlano bene. Facciamo pubblicità negativa al nuovo Rototom. Sì, non si sa. Vabbè, io direi di passare a Groundation, questo gruppo californiano. È una cosa un po' strana, è un po' insolita, un gruppo reggae californiano. Si sono conosciuti a quanto pare nella Università del Jazz in California, di cui uno il componente, il cantante, è diventato pure professore di storia della musica. Hanno chiare influenze jazz, sono musicisti nel vero senso della parola, cioè non sono come i giamaicani che imparavano per strada a suonare, ma sono dei veri e propri sono musicisti. Sono accademici. Allora, però vai. Il pezzo che stiamo per sentire è Picture on the Wall, che è una cover di Freddie McKay, sì. Ed è dell'album del 2002, Hebron Gate, sì. Che è uno forse dei più belli album della storia del reggae, secondo me, del reggae moderno sicuramente. E questo pezzo in particolare ci piace molto, diciamo. Ve lo beccate, Picture on the Wall dei Groundation. Just as hope fills my heart. E ritorniamo in diretta dal solarium. Fabrizio si è tolto la felpa finalmente. Addirittura! Nudo! Dopo l'esclamazione, ma che caldo che fa! Mi sono accorto in ritardo che stava la luna piena. Comunque salutiamo Roberto e Domenico che si sono collegati. Anzi, Domenico no, Roberto che si è collegato ora, e gli mandiamo... Anche Domenico no, scusa. No, Domenico stava già collegato. Ah, okay. No, ma lo salutiamo comunque. Ciao Domè, ti saluto io. Cioè, davvero. Niente. Comunque, stiamo sentendo il nuovo progetto dei Groundation di sottofondo. Si chiama Rock Movia. Ed è fatto in collaborazione. Groundation spesso usano a fare collaborazione con artisti reggae storici. Hanno collaborato con il cantante di Israel Vibration. Con questa qua che stiamo sentendo ora, e con Horse Mouth, un batterista grande, storico. Lo ricordiamo anche come attore. Come un grande attore. Sì, in The Rockers, una magica scena in cui ruba da mangiare a Jacob Miller e si rincorrono. Da ridere. E insomma, Horse Mouth, un batterista storico che ha più o meno suonato nell'80% dei dischi reggae, chiamato così per il muso, il sorriso cavallino. Grande batterista, massimo rispetto anche per lui. È un gran bel progetto. Comunque, questo qua vi consiglio di comprarlo su iTunes. Non che scaricarlo da dove volete dalla voi, rete. Oppure comprare addirittura il disco. Niente, qua abbiamo altri in collegamento diretto. Siamo in collegamento diretto. C'è Bobo su MSN. Chi ha richieste particolari, oppure fare domande, esatto, all'indirizzo rosinbagnato@hotmail.it, ovviamente. E forza per regina, esatto. Rosinbagnato, ricordiamo, portiere storico e terzino destro, era all'inizio della formazione tipo Sarti, Burnic, quella dell'Inter. Noi preferiamo la regina, anche perché qui questa sera ho due gemellati baresi al mio fianco, di cui uno nato a Reggio Calabria, di cui uno nato a Reggio Calabria, che ha fatto retrocedere la regina andando a vedere Regina Verona. No! Con quel cattivo gol di Laursen, verrà radiato da transizione di fase subito. Bomb. No, c'è da dire che anche io ho portato la mia buona dose di fortuna a Roma a Bari, dove il Bari è capitolato 3-0. Continua a cadere, ci scambiamo favori. Niente, qui cadono cose. Li pagheremo tutto, non c'è problema. Niente, Radio Transizione di Fase ha delle finanze infinite. Anche c'è la roba che ci hanno voluto mangiare. Ringraziamo i cuochi, soprattutto Marta che voleva fare un intervento odontoiatrico. Però niente, sta di là. In seguito, se abbiamo tempo. Anche perché vi ricordo che stasera non ci sarà Ciccio Svelo con Out of the Shell. Ma ci sarà perché la fascia di prevenzione. La messa della prevenzione odontoiatrica. Non ci sarà Ciccio Svelo con Out of the Shell alle 11 quando staccherà Pink Moon, perché è in viaggio per Roma, perché come vi ricordo di nuovo, domani dalle 6 andremo a intervistare Massimo Zamboni, il chitarrista dei CCCP storico, che presenterà l'ultimo disco e l'ultimo suo libro. Non si dovrebbe essere totalmente fuso il cervello come Giovanni Lindo Ferretti, che si dice si sia convertito, però ognuno, diciamo, è al cristianesimo. Vabbè, ognuno. Lindo ha detto pure che a quanto pare ha votato Lega. Ho letto una dichiarazione in cui diceva non sarei andato a votare se non ci fosse stata la Lega, una cosa del genere. Diciamo, è stato folgorato sulla via di Bossi Junior, che diciamo è il personaggio del momento. Certo. Ma non diciamo cazzate, insomma. E andiamo a sentirci cosa? Non abbiamo preparato il prossimo pezzo. Cosa vediamo? Cosa sentiamo? Abbiamo, diciamo, una playlist che potrebbe prevedere dei cultural roots con Mr. Bossman, il dub plate mix. Io andrei, sarebbe buono, su questa scelta. Vai. Stop. ritorniamo sulle note dei Sardinia Bass Legalize, dopo aver sentito un pezzo dei Cultural Roots, Mr. Bossman, il Duff Plate Mix. Io non sono molto ferrato sui Sardinia Bass Legalize, però sicuramente i miei assistenti sono dei ragazzi sardi. C'è Paolo, un ragazzo di, vabbè, ragazzo sardo che fa parte di loro, Sensitive Dub, un altro ragazzo, non mi ricordo adesso le città dalle quali provengono, però sono ragazzi veramente in gamba, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista umano. Chi è tu? Paolo sarebbe. Sono usciti da pochissimo con Sankara, con un 7 pollici molto bella, produzione tutta italiana, 12 pollici, scusate, la produzione tutta italiana sulla Lumumba Records, la neonata Lumumba Records, un annetto al massimo, cioè non di più. In distribuzione da anche il nostro amico Luca, che abbiamo sentito Martufello, prima. Da un collegamento telefonico da dal sito www.ainity.com, Ainity scritto A trattino niti.com, che è il sito di Pacoten, che fa distribuzione di dischi e vendita di, sosteniamo le produzioni italiane, felpe, diversa roba del genere. E niente, Fabrizio sta mangiando nel frattempo. Nell'ottima pasta cucinata da Marta. Grazie Marta. Poi ricordatevi di lavarvi bene i denti. Esatto. Questo sarebbe il suo consiglio. Pezzi di carne nei denti. Ma avevamo pensato di mettere un pezzo di Dennis Bovell. Parliamo di dub inglese. Sì, Dennis Bovell è uno dei musicisti più completi forse della scena roots inglese. A suonare il bassista, lui nasce come bassista ma è polistrumentista. Ha suonato con Matumbi, che è un gruppo storico inglese sempre inizi anni 70, che sfortunatamente si è sciolto. Ha suonato anche con Uroy, che abbiamo sentito prima. Leggo ora sull'ottimo Wikipedia che ha fatto pure una collaborazione con i 99 Fox, di cui non ne conoscevo l'esistenza. Insomma, siccome è uno dei migliori musicisti inglesi. E parlando di Dub Poetry, ha collaborato con Lynton Quincy Johnson. Esatto. Sì. Tutti gli album di Lynton Quincy Johnson hanno come bassista Dennis Bovell, che poi è anche arrangiatore. Collaborava anche alla scrittura di testi. Sì. Andiamo a sentirci la sua Reflections. Mamma mia. Thank you. ritorniamo sempre sulle note dei Sardinia Bass Legalize. Stavamo pensando di mettere questa volta un pezzo molto molto molto più recente. Già l'avete ascoltato nella puntata precedente. E tra l'altro la sigla di Pink Moon. Ah, una cosa importante, me la stavo dimenticando, no? Questa Bravo. Trasmissione non è... perché molta gente mi ha detto, ma è una trasmissione dub. Cazzo fai la trasmissione dub? Cazzo mi stai a dire? Invece prevederà diversi generi musicali, avremo ospiti realtà completamente diverse. Avremo ospite Francavilla che sta... è tornato l'ora da Torino. Esatto. E niente, quindi queste due puntate le ho volute dedicare alla dub, anche per introdurre questi bravi ragazzi. E sicuramente nelle prossime puntate andremo a prendere anche album interi, storici, come magari Sgt. Pepper dei Beatles, Pet Sound dei Beach Boys, chi più ne ha più ne metta, The Can Dance. So che avrete gli Sleeping Mood. Ah, gli Sleeping Mood, gruppo, non saprei come etichettarlo, però... Indie, va sempre bene. E li avremo ospiti di transizione di fase. E accogliamo Angela, che Angelina, ha fatto il suo ingresso nello studio dopo 16 ore di lavoro, non pagato, studio non pagato, da sottolineare. E volevamo farvi ascoltare, ecco, abbassiamo il tono della voce perché secondo me si starà sentendo un delirio. Aumenta la gradazione alcolica, aumenta, esatto, il tono della voce. Qui stiamo bevendo solo e rigorosamente acqua dall'inizio, sì, della, sì, trasmissione. E si ritorna al fatto di prima. Siamo, esatto, vestiti in maniera strana, non, esatto, ci vedete, niente, volevamo farvi sentire un pezzo degli Easy Star All Stars che hanno coverizzato tre album fondamentali. Andremo a sentirci la versione di Money dei, presa da Dark Side of the Moon. E stavamo parlando con Bobo prima del fatto che ci sia una featuring abbastanza cazzuta di tale Dollarman nella parte finale del pezzo, che insomma ci piace assai, e noi ve la facciamo ascoltare. Thank you. good man bad. Yeah, yeah. Money will make enough man mad. Yeah, yeah. Money will make virgin man mad. Now them get rich and a quad like big timer. Burn down the bridge that them cross over. Boy, you can't reach today and broke tomorrow. Don't you know that's the way life goes? Yes, money and friend a friend. When I put no money before my brethren, them a worship and a kill for the dollar. Feed the love of money, man, I kill them on a brother. Money is power. Materialistically, them get conquered. You that potential. It are the root of all evil. Let a youth tell a man, me a beggar now. Don't bother mix up. In a the boy, them suckin'. Boy, if a trouble, you will get it. On the double, double, double, on the paper chase. Boy, in a watch the face. And the little thing, they want fit on the place. Man a different way them dollars and cents, yeah. No one don't play with your life, yeah, my friend. Well, money will make a good man bad, yeah. Money will make enough man mad, yeah. Gli Easy Star All Stars con la versione di Money e del simpaticone di Dollarman che ha fatto questo intervento, come vi diceva Bobo, più che dancehall, ragga. Sì, un ragga di quelli fatti bene, non di quelli urlati che sentiamo ora nelle dancehall all'intifada, perché qui di Roma, insomma. E niente, volevamo mettere un pezzo di un signore che personalmente stimo molto, e penso anche Bobo e Fabrizio, che ormai se ne sta fottendo della trasmissione. Assolutamente no. Parliamo di Jacob Miller. The Killer. The Killer. Jacob la, Killer. La panza più famosa della scena reggae. Presente anche lui, ovviamente, nel film The Rockers. No. Ma oltre a The Rockers, tu mi parlavi di Babylon. Io parlavo sì di Babylon, un film che al contrario di Rockers rappresenta la scena inglese reggae, la scena che io sono, come avrete capito, sono più appassionato della scena inglese che di quella giamaicana. Siamo, come dicono. Insomma, rappresenta appunto queste vini all'inizio degli anni '80, sempre Area Thatcher. Parla di episodi che succedono a dei ragazzi che fanno dancehall legali e illegali all'interno di Londra, è prodotto da Jashaka, che è uno dei maggiori esponenti della scena dub inglese fine anni 80, inizi anni 90, insieme a Dennis Bowie, che abbiamo sentito, che abbiamo prima sentito. Alien Sherwood. Gli attori tra l'altro sono gli Aswad, che è un altro gruppo reggae storico. E insomma, si chiama Babylon, consiglio di vederlo a tutti, anche se in italiano non esiste, lo si può trovare sottotitolato e alcune scene su YouTube, soprattutto le scene finali che raccontano lo sgombero di una dancehall, scena tipica di quegli anni. Sottotitolato dai ragazzi di Raro Video, che l'hanno rimasterizzato e sottotitolato, e quindi hanno reso fruibile anche al pubblico meno esperto. Chi conosce meno l'inglese come me, infatti, come noi. Quindi andiamo a sentirci Forward Georgia Children di Jacob Mill, The Kill. Avrei voluto trovare la versione di I'm an Atti, quella famosa del live al One Piece Concert, storico concerto giamaicano, sì. Un concerto che è una sorta di science splash giamaicano che hanno fatto per anni, dove andavano a suonare sempre i maggiori esponenti della scena. E su YouTube si trovano principalmente live solo questi video di questo concerto, e vi consigliamo di andare a vederli perché meritano. E andiamo a sentirci la versione in studio di Forward Georgia Children. Africa must be free. South Africa, blood fire. Forward Georgia Georgia Children. Forward, Jaja, Jaja, children. The time has come when we all should sing and to Jah. Day after day, the children of Zion trying to reach out to you, but they're stopping us with their guns and brutality. Oh Lord, forward, Jaja, Jaja, children. Jaja children, let's sing praises unto the Most High, Jah Rastafari. I and I Jah Rastafari. I and I Jah Rastafari. Whoa, whoa, whoa. Yes, yes, yes, yes. Come on, let me help. Thank you. Ma qui si parlava principalmente del rapporto che hanno i Midnight con la religione Rasta, che simpaticamente è stato definito nullo. Vabbè, diciamo che preferiamo un assetto più militante del sound, era più verso, cioè, tematiche più sociali a noi più vicine, bravo, esattamente. Tematiche quindi, meno lontane dalle nostre. Il tema degli spazi principalmente. Sì, a voglia degli spazi, dei problemi, esatto, dei problemi che sono intorno a noi, a cui siamo più direttamente connessi. E tematiche, vabbè, ovviamente passiamo anche pezzi che parlano di tematiche religiose per quanto riguarda i Rasta, però preferiamo mantenerci su temi sociali. Ma in tutto questo delirio ci eravamo dimenticati di un signore che probabilmente è la figura più conosciuta. Pino Dio. Pino Dio Uspinellato. Pino Dio. Grande cantante napoletano che è deceduto a fine anni 90. E del quale però purtroppo non abbiamo nessun pezzo. E allora che ci sentiamo? Allora, Avevamo pensato di mettere anche Ospiniel di Nino D'Angelo, che ha una base reggae, però ve la risparmiamo e vi consigliamo un ascolto. Come sappiamo, in tutte ascolto le critico di Napoli, di Bari, dei vari quartieri, non può mancare Ospiniel. Secondo me dovremmo fare anche una puntata su questa, sulla tematica dei baresi, no, dei baresi, dei baresi che ascoltano musica napoletana. Ah, ok, questo è il complesso di inferiorità, secondo me. Padre, avevamo già parlato di questa cosa. I baresi vivono. Il napoletano odia. Il barese odia il napoletano, però intanto ascolta musica napoletana e cerca di scimmiottare anche la musica napoletana. I melodici. I più bravi cantanti neomelodici attuali, mi sa che Tommy Parisi. Fatti. Nonché Parese. Parese che canta in napoletano. Vabbè, infatti. Sentiamo Chiudiamola. Revolution dall'album Natty Dread di Bob Marley. Stai per dire qualcosa di sbagliatissimo. Flop. Original Papa Bujo. Yes, original Alta Murgia, ma sì. Original Papa Bujo microphone. Round the tune, my selection. E le produzioni murgiane fatte col cuore. Volevo fare personalmente un appunto a Cosimo, che su MSN ha detto che ha detto testualmente: anche perché tutti i rastafariani sono dei bastardi omofobi. Ora volevo sconfessare almeno in parte questa convinzione, ossia ognuno dà una rilettura personale ovviamente della religione rastafari, e per quanto si possa approcciare partendo da quelle origini, molti artisti non sono assolutamente omofobi, tutt'altro. Ma anche non gli artisti, anche i ragazzi, anche i ragazzi che credono, diciamo, cioè non sono assolutamente tutti, come li ha chiamati? Omofobi. Tutti omofobi, no, non è assolutamente così, cioè per esperienza personale. Però è vero che nella religione rastafarianesimo, vabbè, come nel cristianesimo in genere, cioè la coppia viene concepita in un determinato modo, come si dice, madre natura vuole, però cioè come noi, come non so, la nostra cultura ci impone, alla fine è sempre lo stesso discorso. E il fatto di fare un'interpretazione, è ovvio che le origini del rastafarianesimo sono anche omofobe, però principalmente molti artisti se ne distaccano, e ovviamente primi Midnight Resistance Project, che sono tutt'altro che omofobi, anzi e Fabrizio abbiamo una relazione, hanno una relazione non molto segreta. E il fatto che artisti come Sizzla, Capleton, sì. Capleton soprattutto, anche quando sono pessimi, sono venuti e riparte Murgia, sono stati invitati a suonare a Roma, e molti collettivi si sono giustamente si sono contrariati dal fatto di invitare degli artisti che principalmente nei loro testi trattavano queste tematiche omofobe, e ovviamente si tratta di una minoranza, per fortuna, in questo caso Capleton e Sizzla, che tra l'altro sono proprio cioè trattano tematiche, soprattutto musicalmente sono di un genere molto diverso dalla dub, dall'early reggae, fanno parte del bashment, e come dicevamo prima è una versione molto più commerciale di tutto quello che vi abbiamo fatto sentire. Cosimo chiede: quello che hanno ammazzato il tipo dell'Archigay? Chi è Cosimo? Chi è? Facci sapere, visto che c'è Bobo alla postazione MSN pronto a captare i vostri messaggi. Nel frattempo, ovviamente, come potrete notare, stiamo sforando, sia per il fatto che Ciccio Svelo, come vi ho detto, è in viaggio per venire qui a Roma per l'intervista di Zamboni di domani, che ci stiamo divertendo, e sia perché sì, ci è presa francamente a bene, fin quando qualcheduno non ci caccerà, non cadiamo a terra, continuiamo. Cosimo disse: un cantante rasta aveva ammazzato quello della Archigay giamaicano. Quello non, vabbè, ci sta che, come abbiamo detto, ci sono queste minoranze che sono tutt'altro che moderate, anzi abbastanza estreme, e niente, tutta la musica che vi abbiamo fatto sentire, anche io nella puntata introduttiva, è totalmente lontana da questi canoni, anzi è molto profonda, e come diceva Bobo, anche per la Dub Poetry, come abbiamo sentito Lynton Quincy Jones, è un approccio molto profondo e mistico alla vita in genere. Ora, aiuto a Bobo. Sì, ci andiamo a sentire un pezzo dei Revolutionaries, che sono una band giamaicana, backing band, cosiddette backing band, che hanno prodotto un sacco di basi, molte basi, con King Tubby, Augustus Pablo, per gran parte dei cantanti giamaicani, da più o meno tutti quelli che abbiamo sentiti, da Jacob Miller a Gregory Isaac, che non abbiamo sentito, a Frankie McGregor. Loro sono dei buoni musicisti giamaicani, è raro trovarne. Allora, andiamo a sentire. Radio Transizione di Fase, la radio senza amici di Maria De Filippi. We are the music makers. Vabbè, ora non so se si sente benissimo, ma stiamo sentendo i suoni Mudu, che per noi rappresentano il top del reggae in Bari. E qua il campanilismo ritorna. Sono... Sembrava giusto chiudere con un pezzo, sì, un pezzo roots dei ragazzi baresi, no? Sì. Suoni Mudu, nonché Nico Mudu. Uno dei maggiori artisti, se possiamo chiamarlo così, della scena reggae barese, subito dopo i Different Style, sono quelli che hanno più caratterizzato e portato avanti la scena indipendente, underground della Puglia, non solo su Bari ma su tutta la provincia, le province pugliesi. Le delle poste, centri sociali, sì. Cucine meridionali a Bari. Ascolto militante. Sì, sempre liriche molto impegnate sul sociale, zero religione. Impegno. Sì, impegno sul sociale. Niente, noi abbiamo già abbondantemente sforato, approfittando della mancanza di Ciccio Svelo. E niente, scegliamo un pezzo per salutare tutti. Questo. Io direi, vabbè, però da sentire non in sottofondo. Io opterei per... Vai tu, Vic. Il grande Bobbe. Alle 23:26 allora, non sei più neanche ti. Le direi... Talking Blues. Vai, Cristo. Va bene, allora vi salutiamo. Pink Moon ritorna un po'. Amo Messi. Ah, ok, a voglia. La parola Mamet, no, la parola militante, io opterei per un albero di 30 piani di Celentano. Ah, Matteo chiede un albero di 30 piani di Celentano. Diciamo che la serata non è proprio adatta, magari. Matteo. Ma ci sta dicendo. Ti mandiamo comunque un abbraccio e magari poi la prossima puntata la iniziamo con l'albero di Branduardi, se proprio di alberi dobbiamo parlare. E questi sono sempre i suoni Mutu in sottofondo. Abbiamo optato per Revolution, no, e Talking Blues. Per Talking Blues e non resta che salutarvi. Michelangelo, Bob Fabrizio, ciao raga, Midnight Resistant Project, Donato, Marta, Angelina, Ciccio, la sala vi saluta e vi ringrazia. Ci sentiamo lunedì prossimo. Buonanotte e buonanotte a tutti.

It has become a fashion. Lux, it has become a style. Lux, it has become a fashion. Every man has to know his own man. Lux, it has become a fashion. Lux, it has become a style. Lux, it has become a fashion. Every man has to know his own man.